Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia grazie a Radio Big World. Siamo sempre qui alla ricerca della verità, del perché ci mentono, come hanno iniziato a mentirci, da dove è partito. Prima di incominciare con il dire cosa guardare, cosa cercare o comunque su cosa pensare o ragionare, ci tenevo a dire una cosa: non dovete credermi, non credetemi, perché bisogna partire dal fatto che non sappiamo niente. In che senso non sappiamo niente? Che noi sappiamo quello che ci è stato detto, perché nel momento in cui credi di sapere tutto, smetti di farti delle domande. Io è questo che non ho smesso di fare, di farmi delle domande, e sto continuando tuttora a farmele. Questo programma è principalmente per iniziare a farvi fare queste domande anche a voi stessi. Facendoci queste domande in questa maniera ci mettiamo in gioco. Io mi sono messo in gioco, mi sono completamente buttato in questa avventura. Quindi abbiamo detto che da quando siamo andati a scuola, da quando eravamo piccoli, ci è stato insegnato il modello del globo, dei pianeti, e ci sono stati fatti imparare a memoria della luna. Ma perché questo? Che motivo hanno di insegnarci queste cose quando siamo piccoli? Perché c'è un controllo. Perché non è per i soldi. Uno dice: sì, va bene, ci rubano i soldi se tutte quelle cose dello spazio sono finte, ci stanno rubando un sacco di soldi, le agenzie spaziali e il governo ci stanno rubando un sacco di soldi. Il motivo non sono i soldi, perché i soldi li possono stampare quante ne vogliano, insomma sono loro i padroni, ne decidano il valore della carta, la possono stampare quando vogliano e quante ne vogliano. Quindi non è quello. Allora per cosa è? Se non è per i soldi, per cosa è? È per un controllo non solo mentale. I soldi forse sono più per un controllo fisico, perché meno soldi ha una persona, e più tempo deve spendere per lavorare e guadagnare quei soldi. E avendoci meno tempo libero, ha meno tempo per farsi delle domande, ha meno tempo per pensare liberamente, perché quando torni a casa dal lavoro sei stanco e tutto quello a cui vuoi pensare è rilassarti, divertirti. Quindi nel momento in cui ti viene impiantata l'idea che vivi in un... che siamo un caso, siamo una casualità, che fuori ci sono milioni di pianeti, alcuni probabilmente sono abitati da altre civiltà, probabilmente anche più avanzate della nostra. Perché questo? Perché in questa maniera ti fanno sentire insignificante, sei un granello di sabbia in una spiaggia infinita, e in questa maniera ti senti piccolo, ti fanno sentire piccolo, e credi a quello che ti dicono, perché il governo ti dice tutto, ti imposta la vita come è adesso. Quindi arriviamo al punto in cui non riusciamo più a distinguere la realtà dalla fantasia, cosa è reale e cosa no. Ci hanno praticamente catturato in questa ragnatela di menzogne. E volevo far presente quanto questa cosa, quanto questa cospirazione è grande a che livello è, perché no, non c'è altra cospirazione, non c'è altro, altra teoria o altre cose che possono buttare giù i cosiddetti elite, perché la menzogna che butta giù la terra piatta non è tanto il 9/11 o JFK, no, butta giù il sistema educativo, la menzogna che c'è dietro, la scienza, il mercato che c'è dietro le nazioni, dietro i potenti, butta giù tutte queste cose, le riunisce insieme. La Terra piatta non è una cospirazione, la Terra piatta riunisce praticamente tutte le cospirazioni e le butta giù, perché secondo me è una grande verità che distrugge tutte le menzogne che ci sono state negli anni, che ci sono state da quanto tempo è che, da quante generazioni va avanti questa cosa del globo, dei pianeti. Un esempio che posso fare è quando ho iniziato a rendermi conto che nella religione c'era delle cose che non mi tornavano, me ne sono allontanato subito. E chi è che c'era ad aspettarmi a braccia aperte, bello felice? La scienza, perché andando alla scuola praticamente ti distrugge la religione, non puoi credere nella religione dopo essere andato a scuola, è impossibile credere nella religione. Quindi chi c'era ad aspettarmi a braccia aperte? La scienza. Ti dicono, noi siamo tutto verità, prove e fatti, noi non mentiamo. E quindi io l'ho completamente abbracciata, l'ho completamente accolta dentro di me, questa cosa della scienza, del guardare in modo scientifico le cose. Ma anche lì poi piano piano, dopo essere stato tanto nell'osservare le cose in maniera scientifica, ti rendi conto che sono tutte formule e teorie, non, almeno su queste cose della Terra non c'è tanto da, non c'è tante prove fisiche, tante prove materiali che ti possono dire sì o okay, è 100% così, no. E quindi anche lì c'erano delle cose come nella religione che dice no, aspetta un attimo, non mi torna questa cosa qui. Allora mi sono allontanato anche da quell'aspetto lì, perché dove sono le prove dell'evoluzione? Come fanno a sapere l'età della Terra davvero? E quindi ho capito, mi sono reso conto che era una religione anche quella. Mi ero allontanato da una religione per andare a finire in un'altra religione. E quelli che dicono di avere delle risposte, che dimostrano, che cercano di dimostrare che la Terra è tonda, che ti fanno tutte queste spiegazioni con la fisica, le misurazioni, cosa ho notato io nell'ascoltare loro, nel vedere loro dire queste cose? Non hanno cercato abbastanza, non hanno, se io vado su Google e cerco la circonferenza della Luna o la distanza della Luna alla Terra, lo trovo subito. Però è davvero la verità? Cioè, o mi posso fermare alla prima cosa che trovo, oppure posso scavare, si può scavare e andare a cercare le risposte da soli, non qualcuno che ci dice a cosa credere o come vedere le cose. Le dobbiamo vedere da noi le cose, dobbiamo essere noi che ci rendiamo conto di com'è davvero la realtà. Perché quanti anni è? Sono centinaia di anni che è fuori questa cosa, che non è venuta fuori questa cosa, che ci stanno mentendo. E quindi uno non si deve, non si può fermare alla prima risposta che trova, accontentarsi, perché è quello che si è sentito ripetere per tutta la vita, da quando è piccolo, o che non si allontana minimamente da quello che ti viene fatto vedere e fatto sentire dalla mattina alla sera dalla televisione o comunque dai media in generale. E quindi è questo quello che intendo io per andare a scavare, per non fermarsi ai primi strati, perché la menzogna è grande, il livello di questa menzogna è enorme. E cercare di trovare le risposte con due pigiate di tastiera è praticamente impossibile, quasi. È questa la menzogna e uno deve andare a vedere, andare a cercare, deve scavare più a fondo, perché uno non si deve stupire che trova la risposta che cercava, perché è quello che vogliono, è quello che vogliono. Uno non, per questo uno deve arrivare, deve prendere tutti i pezzettini, metterli insieme e arrivare alla propria conclusione, ai propri ragionamenti. E quindi quando mi viene chiesto come ha cambiato la tua vita questa cosa della terapia atta, non è una domanda che va fatta a me, ma è una domanda che va fatta a noi stessi in generale, a se stessi. Cioè, mi importa che mi hanno, è importante che mi hanno mentito da quando sono nato, per 25 anni della mia vita, per 30 anni della mia vita, tutto quello in cui ho creduto era una menzogna, non era vero niente. Mi ha fatto credere di vivere in una bugia, in qualcosa che non esiste, e quindi non è importante come attraverso il sistema dell'educazione, attraverso i mass media, mi hanno impostato un modo di pensare, di vedere le cose, di ragionare, di fare delle ricerche, di relazionarmi con le altre persone. Ha importanza per me che mi hanno mentito per tutto questo tempo? Fa differenza? Quindi se siamo felici così, allora va bene così, ci mettiamo a guardare la televisione, siamo contenti di quello che ci fanno vedere, di quello che ci dicono in cosa credere, in cosa avere paura. Andiamo, facciamo il nostro lavoro dall'8 alle 5 e senza nessuna preoccupazione, senza pensare a altro, e non affliggere la nostra vita in nessun modo, non modificare la nostra vita in nessun modo. Ma per molti di noi non è così. Per molti di noi è un grande problema. È un grande problema perché? Perché per me sono 30 anni della mia vita di un'esistenza falsa, di menzogne che qualcuno ha deciso per me, qualcuno ha deciso cosa dovevo credere, cosa dovevo vedere, come dovevo pensare determinate cose, il modo in cui dovevo vedere il mondo com'è, senza pensare per me, senza pensare liberamente, senza arrivare a delle conclusioni mie, no, ci hanno dovuto pensare loro. E questo per qualcuno è un grande problema. Quindi questi sono un po' i motivi che mi hanno spinto, principalmente che mi spingono a fare questa cosa, a parlare così. Spero di esservi arrivato in qualche modo a qualcuno di voi. Quindi grazie per essere stati con me, grazie a Radio Big World e alla prossima.